ribalti tutto. Vabbè, no, Donato, ma lui ha passato delle feste terribili. Donato, vai a attaccare gli esodati, ma vai dall'alto. Vai oggi dall'alto, sei carico, aspetta, sei carico, ciao. Ciao David, ore 19:30, arrivo a casa, mi scappa la pipì, corro a cambiarmi, mi tolgo la maglietta, i pantaloni, passo davanti al primo bagno, lo evito, passo davanti al secondo bagno, lo evito, nonostante mi stia scappando, mi dirigo in cucina e appositamente la faccio nel lavandino, che goduria, siamo al top. Crociani, sono in ufficio, sono appena andato in bagno. Sono accorto di essermi pisciato, no, pisciato sotto no, ma ho qualche goccia di pipì che è uscito. Mi sono macchiato le mutande e anche un po' i pantaloni. Solo che ho paura che qualcuno mi veda e sono un po' preoccupato. Ciao. Grandi inchieste della Zanzara. Chiedo a mia moglie, ma anche tu mentre fai la doccia fai la pipì se ti scappa? Sì. Visto Parenzo? È normale. Crociano, io la pipì la faccio nella bottiglia, faccio il camionista. Capita. Amico mio. Crociani, mio padre stamattina ha fatto la pipì nel lavandino. Io non mi lavo più i denti. Che dici? Glielo diciamo a Crociani? Sì, dai, diciamoglielo che facciamo la pipì nella doccia. Sì, ma che la facciamo in piedi. Io faccio la pipì nel tuo bidet, nella tua doccia e nel tuo lavandino già da un bel po'. Però io sono legittimata perché cerco di marcare il territorio. A casa dei suoceri, lavandino water. Lavandino tutta la vita, pisciata feroce. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La Zanzara. Ragazzi, è tempo di Gay Pride in giro per l'Italia, eh? Sentiamo Caria Tira con una telefonatina, la facciamo una telefonatina a Gentilini, che sabato c'è il Gay Pride a Treviso, città ex leghista, ormai in mano al Partito Democratico, hanno organizzato una grande manifestazione, migliaia di froci convergono su Treviso, Gentilini rispondi cazzo, Gentilini, ex sceriffo di Treviso, ormai molto molto anziano, eh? Dai ragazzi, dai rispondi. Sì. Giancarlo? Sì. Qui la Zanzara, buonasera. Ciao Zanzara. Come andiamo? Ti volevo augurare un buon Gay Pride per sabato, eh? Sì. Beh, amico mio, è grande manifestazione sabato a Treviso, no? Sì, certamente. Sì. E c'è anche il patrocinio del comune di Treviso. Appunto. Vedi, io non avrei mai dato il patrocinio quando sono venuti a fare il corteo quando ero sindaco. Chi, Culattoni? A vedere gli uomini con un paio di tette come Sofia Loren. Sono venuti sotto gli uffici del comune. Sì. Poi uno si era attaccato al cancello, diceva violentatemi, vedi. Senti, ma allora Treviso sarà invasa da chi? Com'è che li chiamavi tu una volta? I culattoni? Cioè, noi in gergo trevigiano fino dalla gioventù li chiamavamo culattoni. Adesso forse ci potranno denunciare perché chiamarli gay, bisogna chiamarli omosex, non so che cosa. Questi qua si possono chiamare anche froci o no? Beh, certamente, ma puoi fare tutti gli epiteti che vuoi. Ma comunque è bella una manifestazione variopinta, c'è un sacco di gente con le piume. Ci sarà variopinte, ci saranno esposizioni di sederi, di petti, non so di che cos'altro. Io sarei per interventi drastici, capito? Interventi magari drastici? Magari manganelli e olio di origine ancora. No, ma che dice? Più possibile. Ma come? Perché i manganelli? La legge è dalla loro parte. Ma perché saresti per i manganelli? Che vuol dire? peggio, sono i sogni di mio, perché quando Mussolini è venuto a inaugurare l'aeroporto di Treviso nel 1938, io montavo la guardia come balilla alla gioventù italiana. Ma che porcheria, ma una porcheria, ma che c'entra? È una porcheria, Ma perché bisogna intervenire con i manganelli? Non ho capito. È un'ipotesi che si potrebbe fare, ma per carità, quando la legge ha sentenziato, purtroppo, dici tu, ci no? possono essere i matrimoni fra due dello stesso sesso, ognuno deve mettersi il manganello in tasca e buttare via l'olio di ricino. non è più possibile, hai capito? Meno male. Noi siamo ancora i nostalgici. Io non ho niente contro i gay, contro le lesbiche. No, niente. Però ognuno deve rimanere nei propri recinti, nelle proprie intimità. Sì. E non fare questa forma di esibizionismo. Però scusami un attimo. Esibire cosa? Cioè, tetti, culi, eccetera. No, è finito il tempo. È bello il bacio tra due uomini. Ma mi fanno a me viene il volta stomaco. Il volta stomaco. Se quando vedi due uomini che si baciano, il volta stomaco. Mi viene il volta stomaco e vedo due donne che si baciano, mi viene la stessa cosa. È una cosa contro natura. Contro natura. Quindi, contro natura. Ragazzo, anche nella civiltà ellenica tu ti ricordi 4.000 anni fa grandi scrittori si inchiappettavano, commedi, eccetera, avevano come compagno un bambino di 8, 9, 10 anni, hai capito? Ma perché tu dici che i gay molti sono pedofili? Ma sì, certo. Treviso viene sfregiata dal gay pride. Io credo che la grande immagine di Treviso gentiliniana che era conosciuta in tutto il mondo ha un grande sfregio con questa manifestazione. Ma hai visto che è successo in America, Orlando? Certamente no. Da un certo punto di vista, quei gay là, siccome si baciavano anche in pubblico, cioè, se la sono un po' cercata, o no, quelli di Orlando? Ah, sì, vai. Come sì? Beh, ma sai... Se non ci fossero stati quei club, non sarebbe morto nessuno, se non si fossero baciati. Certo, se invece fare questa ostentazione, ognuno resta con i propri difetti fisici, difetti. Che nascono dalla nascita, forse. Sì. Forse no, non sarebbe successo, non c'era necessità di fare i club, non c'era necessità di fare i cortei, eccetera. Cioè, tu dici che hanno provocato, hanno provocato quello che ha sparato questi signori? Sì, certo. Anche qua a Treviso io credo che il corteo non sia un corteo di sportivi. C'è il rischio che qualcuno venga là a sparare ai gay a Treviso? Ma no, io non penso nemmeno, ma non si può mai escludere nulla. Estote parati, hai capito? Estote parati. Estote parati. Siamo alla follia. Ecco, ciao Giancarlo, ciao! Sara, perché sennò ti donna di flip. Qui siamo all'ultimo stadio con Gentilini, siamo quasi all'ultimo stadio, è tutto finito, lo sai, agghiacciante, no? agghiacciante, terribile. Mario da Cosenza, sentiamo Mario da Cosenza. Sentiamo questo miserabile Mario. No. Sentiamo che cosa di così importante da dire Mario. Sentiamo che cosa di importante da dire Mario, da farmi perdere 5 minuti preziosi. Non avrete da dire niente. E allora vado a cominciare. Devi parlare. Aspetta, dimmi Mario. Sì, volevo dare anche ragione a Parenzo per le altre cose, perché noi a casa siamo tre maschi e una donna, mia moglie, e ci facciamo la pipì da seduti. Oh, però, vedi. Un'altra, vedi che è qualcosa di intelligente. Bravo, Mario da Cosenza è una persona per bene e pulita. Grazie, ci sentiamo domani. Aspetta, che vuoi aggiungere? Che vuoi aggiungere? Però volevo aggiungere un'altra cosa. Sì, posso? Sentiamo. Vai, veloce però, che Parenzo vuole andare via. Siccome spesso fuori, andando spesso e volentieri fuori all'estero, fuori Italia, non ci sono i bidet. Dopo aver fatto la pupù, io il bidet me lo faccio nel lavandino. Ho capito. Non sapevo che avrebbe chiamato. No, però questo è importante. Me lo aspettavo. Tu dici all'estero non c'è il bidet. Importantissimo. E dunque tu praticamente fai la cacca nel bagno, dopodiché ti metti col sedere nel lavandino. Mamma mia, e tiri fuori tutto. Beh, all'estero però si può fare. Anch'io l'ho fatto, devo dire la verità. Tu non l'hai fatto mai all'estero, Parenzo, il bidet? Ma dove andate? Io vorrei sapere che posti frequentate i bidet, voi. I bidet non ci sono in un sacco sono di paesi. In Inghilterra c'è però lo spruzzino dentro i bagni. Quando non c'è, che fai? Quando non c'è, che fai? Quando non c'è, che fai? Il lavandino, sincero, non mi è mai la doccia. Ma non faccio. È vero. La vasca. Oh, Mario lo fa ma nel lavandino. Cazzo Mario vivete, Mario ragazzi, si è pulito il culo sul lavandino. Perché siete un branco di sporcaccioni? Tu, Mario da Cosenza, Mauro da Mantova, siete un branco di sporcaccioni. vivo a Berlino. L'altro giorno al parco ho incontrato una coppia, due ragazzi giovani, barbetto, occhialini, un po' hipster, un po' intellettualoni. Spingevano questo passeggino, lo guardo, ci guardo dentro, sai, mi accovaccio, ci guardo dentro, li guardo e faccio: bello, che modello è? Quanto l'avete pagato? Cruciani, dici che il diavolo non esiste. Io invece lo so che esiste. È un poltino, coi capelli tutti unti, i denti rovinati con la fiatella, puzza come una capra perché non si lava mai e soprattutto c'ha le corna. Ti ricorda qualcuno, Cruciani? No! Pronto, buonasera, sono Giovanni, salve. Sì, mi dica, buonasera. Salve, ho letto di voi, ho visto di voi in televisione. Ah, bene. Salve, volevo portare il mio cane per un trattamento, mi sembra tutto magnifico. Che cagnolino ha? È un barboncino, si chiama Dildo. Ma vuole portarlo per la toilettatura? Sì, boutique. Volevo capire le unghie, per esempio, come potete trattarle. Le unghie? Sì. La ragazza controlla tutto, pulizia orecchie, ghiandoline, sì. Unghiette. E cosa si può fare poi di particolare? Ci sono un sacco di trattamenti, appunto. Che ne so, la maschera, si può fare una maschera? Certo, maschere, ci sono... Cos'è la maschera? Come funziona la maschera di bellezza? Vengono messi dei prodotti apposta, a seconda della necessità del cagnolino, se per il pelo, per la pelle, così, vengono fatte agire per qualche minuto. Sì. E poi appunto viene risciacquata e si procede con tutto quanto. Poi volendo c'è anche l'idromassaggio. Ah, l'idromassaggio, ma secondo lei servono queste cose? Certo, sì, servono molto, comunque... A seconda, appunto, le ripeto, del pelo così, sì. La ragazza le fa consigliare al meglio proprio, certo, quello che è più efficace per il cagnolino stesso. Ma ho letto anche che mettete addirittura lo smalto, possibile? C'è una cosa in più che casomai per chi lo vuole c'è, cioè, poi ovvio noi abbiamo un po' di tutto, quindi è una cosa un po' a parte. Ah, ho capito. Lei è interessata a mettere lo smaltino? Ma no, ma era carina come cosa. No? Scusi, ma per esempio il deodorante, perché siccome questo cane puzza, non dico che puzza, però per esempio i deodoranti, che cosa si può usare? Ci sono dei prodotti che voi avete? A parte che tutti i nostri prodotti che vengono usati sono dei prodotti naturali e comunque, sì, già di loro appunto proprio il bagnetto lasciano un buonissimo profumo, altrimenti comunque abbiamo anche noi stessi vendiamo un profumo fatto apposta per i cagnolini alla vaniglia e patchouli. Ah, vaniglia, eh? Paciuli. Ci sono dei vestitini anche là, si possono comprare delle cose? Ah, sì, è una vera e propria boutique. E poi appunto a parte abbiamo la toilettatura. Per esempio una camicia, quanto costa una camicetta, un camiciolo? Costano 79, poi sono arrivate anche le polo che costano 69. Ah, le polo, interessante, sì, le polo, cioè, sono... Non le polette sono arrivate proprio oggi. Ah, le polo. Ma lei è una femminuccia? Questo, Giovanni? Aspetta. Sì? Aspetta, Giovanni, scusi. Pronto? Un attimo, scusi signorina. Buona. Pronto? Sì. Ah, signora, salve, sono il compagno, Giovanni. Sì. Bene, perché la porterei io. Volevo chiederle anche questo, perché la cosa un po' mi imbarazza, per la verità. Però siccome vengo io, perché il mio compagno non si occupa mai di queste cose, volevo, sì, sapere, il fatto che il cane sia omosessuale è un problema? C'è un secondo solo, buongiorno. Sì. Pronto? Sì, pronto, buongiorno Giovanni. In Laterano. Buongiorno Giovanni, mi dica tutto. In Laterano. No, volevo sapere, siccome stiamo prenotando il servizio per il nostro cane, sì, e vorrei venire direttamente io, volevo capire questo, se non era un problema il fatto che il nostro cane è omosessuale, insomma. No, non ti preoccupi, abbiamo la smanettatrice in toilettatura. Ah, veramente? Sì, sì. Ma anche per il padrone? Sì, dipende da come è messo il padrone. Io abbiamo lo smanettatore, però. Ah, non è male, va bene, allora grazie, prenoto anche per il mio compagno. Va bene, prego, arrivederci. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Ci stiamo avvicinando a quella che è l'apocalisse definitiva. Io vi faccio notare una cosa: Il Papa ha fatto partire il Giubileo, ha aperto la Porta Santa ufficialmente alle ore 11:11. Allora, se voi andate a vedere, e ve l'ho già detto in parecchi video, il numero 11 è il numero apocalittico per eccellenza. State sentendo il faraone nero. Mancava. Il mancava. Faraone nero. Un signore che si fa chiamare così, che si chiama in realtà Andrea Sorbi, se non sbaglio. Andrea Sorbi. Io una telefonatina a questo Sorbi. A questo Sorbi sì, però la farei. Aspetta solo un secondo, guarda, ti prego. Va bene, fai la telefonatina. La posso nuovo... fare. Tu però non ti innervosire subito. No, eh? Io mi sto già innervosendo che uno subito. Si chiama Faraone Nero. No, cioè, già questo mi manda il sangue. Siccome l'hanno segnalato da tempo ormai diversi ascoltatori. E ti segnalo che questo è l'orario oggi in cui mi sono finita deciso. L'assemblea di Confindustria, il presidente e tutti gli altri salgono nella loro macchina, fanno ritorno a casa, il dottor Boccio sì. E tutto il grande staff, e diranno, oh, vediamo che cosa la nostra radio propone, la radio degli industriali. Sì. Ecco, quindi do questa precauzione. Fammi chiamare, però sennò si fa tardi. Fammi chiamare, dai, fammi chiamare. Faraone? Sì? Andrea? Sì? Come devo chiamarti? Sono Cruciani, ciao. Ciao, salve. Ma perché questo nome, Faraone Nero? Faraone Nero perché secondo tutti gli antichi testi egizi rappresenta la reincarnazione di un faraone. Sì. Il colore era nero. Sì. Si può dimostrare perché ci sono delle cose che possono essere dimostrate tranquillamente. Cioè tu sei la reincarnazione, tu sei la reincarnazione di un faraone? Una divinità. Di una divinità chiamata. Non si esistono, si possono dimostrare. Si può dimostrare che tu sei la reincarnazione di una divinità. Chiamata Faraone Nero? Mancava questo qui. No, è il dio Amon Ra. Ah, Amon Ra. Amon Ra. E faraone, chi sarebbe Amon Ra? Sarebbe quello che viene considerato il signore degli dei in persona. Sì, il signore degli dei. E il faraone nero, il nome faraone nero da dove viene invece? Incredibile. Il nome faraone nero è dall'Egizio. Ma che c'entra? Quindi il re dei re normalmente è un faraone. Ma quello te lo sei dato da solo il faraone nero come nome? Beh, chi gliel'ha dato? No, chi te l'ha dato? Un branco di matti che l'ha dato. No. Chi te l'ha dato? Non ho capito. Il mio cognome che uso, sì. Sorbi, vuol dire signore manifestato per la seconda volta sotto forma umana. Ah, cioè, l'ha detto però, aspetta. Lei se l'è detto. C'è tanto da discutere perché ricordatevi che la Chiesa Cattolica sta raccontando un mare di minchiate. Ma su che cosa sta raccontando un mare di minchiate? Signore qua, io ma Gesù di Nazareth è una cosa finta, è il dioro degli Egizi, si può dimostrare, i testi sacri sono chiarissimi in merito. Sì, scusami, però adesso dei testi facciamo sacri. Un attimo di Sorbi, chiarezza. Aspetta, Sorbi. Perché porta Faraone Nero? Cioè, Sorbi Faraone Nero, che vuol dire? Il signore degli dei in persona. Il signore. E dunque la parola Faraone Nero... Apocalisse. Sì. Anche l'Apocalisse, sì, ci vuole l'Apocalisse. No, però scusa, mancava. Il Faraone Nero è un nome che ti sei dato da solo. E chi gliel'ha dato, certo. No, No. Chi gliel'ha dato? Altri a darmelo. Altri. E chi? Altri. Altri, ma divinità? Cioè, persone che esistenti? Anche gente che conosce a memoria i testi sacri. Ah, sì, tutti rinchiusi nei migliori manicomi criminali. Faccio un esempio semplice: la vera Bibbia ha 66 testi, sì. 39 nell'Antico Testamento, 27 nel Nuovo. Sì. E dunque? Allora, l'arrivo dell'estate. 39 era l'anno di nascita di mio padre, 27 di mia mamma. 66, sì. 6 più 6, 12. Sì. Ufficialmente sarebbe uno dei 12 apostoli, quello vissuto 66 anni dall'anno 6 all'anno 60 dopo Cristo. Sì. Perché tu sei esperto di numerologia, se non sbaglio, no? Molto esperto. Sì. La tua data di nascita coincide con qualche cosa? Sì, è la data di nascita di Gesù Cristo, quella vera. Quella 19, vera. 1967. A livello faraonico è la esatta data di regno di Ramsete II. Cioè, 19, 67, 67esimo faraone è Totmosi III. Ah, ecco, ho capito tutto. La 68esima dinastia, quindi famoso per la battaglia di Megiddo, quindi la battaglia di Armageddon. Ed è il motivo per cui tu praticamente, ecco, volevo capire, è il motivo per cui si arriva al faraone nero, questa è la sostanza. Sì. Sì, però io voglio capire una cosa, tu riesci a prevedere cosa potrebbe, che ne so, se ti faccio una domanda. Riesci a prevedere che io tra un po' vi mando a fare il culo oppure no? Riuscite a prevedere questo oppure no? Vai. Ma io guardi, se mi vuole mandare a fare il culo faccia pure, liberissimo di farlo. No, se riesci a prevederlo, caro, a parte il collega, scusi, sono Parenzo, il collega che continua a chiamarla Faraone Nero, Ma di che cosa Andrea Sorbi. Detto il Faraone Nero. Allora, il nome Andrea Allora, il nome è Andrea. Sì. Senta, si reincarni, si reincarni in questa minchia. Ma di che cosa state parlando? Alla sera, sulla radio della Confindustria, del Faraone Nero. Non ne posso più di Faraone, voi. Scusi, perdoni. Non ne perdoni. Posso più di tutti voi. Ma tanto con il programma, quello lì lascia il tempo che trova. Ma sì, ma infatti lasciamolo perdere. Certo, certo, siete bravi. Mi parli dell'Isis, cosa c'è dietro l'Isis? Questo si può dire? Ma l'avete visto che Isis è il nome della dea Iside in greco? E che vuol dire? Ma lo chiede al Simon Elliott, agente del Mossad, che si fa chiamare Abu Bakr al-Baghdadi. Cioè, secondo lei al-Baghdadi è una specie di agente del Mossad? Sì, anche perché ufficialmente il gruppo ISIS fa questo califfato il 29 giugno del 2013, 29-6-296, in geografia ebraica la parola Adonai Melech Namen, cioè? Che è il signore e il sovrano giusto, quindi c'è il signore a giro. E dunque, lei, lo stesso tempo è anche il giorno del patrono di Roma, cioè San Pietro, dei Santi Pietro e Paolo. Sì. Pietro, Peter e Jupiter, il dio Giove. Sì. Ma che vuol dire tutto? Aspetta, aspetta. Ma che vuol dire? Sa che data è oggi? Sa che data è oggi? Oggi? Sa che data è? Perfetto. 26 di maggio, io non perfetto. È che guardo tante cose. Perfetto, 6 più 2 è 8. 8 volte a fare il culo vada! 8 volte! 6 più 2 è 8. 26 è la, 26 e si deve caso che sia Geova. Ma però vada. Scusi un attimo, aspetta, ma perché dietro l'ISIS ci sarebbe, che cosa c'è allora? La lobby ebraica, che c'è dietro l'ISIS? Mamma mia. Certo, l'ebraismo dovrebbe essere l'unica, l'ultima religione che dovrebbe restare. Nella realtà dovrebbe restare la religione dell'amore, che è quella vera. E invece? La vera religione è quella dell'amore. Non deve esserci né razzismo né discriminazione in nessuna sorta. Questo in generale. Vi siete domandati come mai il Papa, per esempio, si è fatto promotore della richiesta del sacerdozio alle donne? E perché? Io l'ho detto qualche video fa. Video? Sì. E sapete che il Papa, tempo fa, ce l'ha addirittura avuta con me. Sì, beh, no, con lei direttamente non credo. novembre dell'anno scorso, che il signor Papa Francesco ha detto che non si può parlare di poveri, di senza tetto ed essere un faraone. Sì. No, però non si riferimento chiarissimo. Ma non era un riferimento. No, non può. Non sa chi è lei il Papa! Non ne conosce per sua fortuna l'esistenza. Allora, Papa in sanscrito vuol dire male, maligno, malvagio. Però usa tutta la numerologia del 666, sta nella Domus Santa Marta al numero 201. E beh? 201, allora, Santa Marta a Roma si festeggia il 19 gennaio. E Santa Marta fu martirizzata insieme a San Mario, a Sant'Abaco, a Santo di Fascia e alla rotonda Sant'Andrea. Quindi si cos'è il numero 5? Sa cos'è il numero 9-1. Il numero 5? Ma sai cos'è il numero 5? Che lo stesso tempo, un numero divisibile per 3, 201, 2 più 0 più 1, quindi 3 a 67. Si segni questo nome, 67. Andrea, sa cos'è il numero? Il cognome Sorbi, 19-1-67 e ne ha trovato il signore in persona. Sì, ho capito, il numero 5, sa cos'è il numero 5? Il numero 5, sa cos'è? 5 parole, vada a fare in culo! 5 parole. A lei tutta la sua famiglia. 5 parole. Vada a fare in culo. Sono 5 chiare parole. Guardi, questo lo dico per l'intelletto tecnico. Vada a fare de culom. Scusa, Farao, ma io credo Bergoglio, come lo giudichi tu? No, Bergoglio. Ma io lo giudico piuttosto finto. Se sto, il Papa, il Papa, cioè, il Faraone Nero, ma questo è male. Perché il Papa non viene mai messo dalla Chiesa per caso. Domandiamoci come mai Ratzinger è stato fatto dimettere. Ma come lo consideri tu come personaggio, Bergoglio? Dammi infido. Il tuo parere. Infido. Infido. Infido. Infido. Ma di chi si occupa? No, del regime di Videla. Ah, perché lui dice ma lei di cosa? Della vita normale. Quando esce di casa la mattina, porca puttana. Di che cosa si occupa? Faraone, oltre... di che si occupa? Cosa fai di mestiere, Faraone? Ripara elettrodomestici. Ripara elettrodomestici. Cessi deve riparare, lei. Cessi deve riparare, Faraone. Questo è la cosa anche nobile. È giusto. Ma non ho capito perché non può riparare elettrodomestici. Ma no, non ho perché io non lo chiamerei mai a casa. Lo chiami a casa e dici: scusi, mi puoi riparare elettrodomestici? No, 4 più 2, 9, 5, 8, 42. E i numeri, cosa dire... i numeri cosa dicono di Renzi? Ma i numeri dicono che... il numero 42? No, ma i numeri cosa dicono di Renzi? I numeri, cosa dicono di Renzi, per esempio? I numeri. Matteo Renzi, allora, MR. Matteo Renzi in Egizio sono il 9 e l'11 geroglifico, quindi ha a che fare con l'11 settembre.